Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Walter City, narratore, critico, letterario, saggista, ora in libreria con Resistere non servi a niente, pubblicato da Rizzoli. Un libro che tra l'altro concorre per il premio Strega di quest'anno. Partiamo subito dall'inizio di questo romanzo, perché è un inizio un po' particolare, anche in questo caso come era già accaduto in altri libri in passato, per esempio ricordo Troppi Paradisi. Lei utilizza una sorta di finta biografia, un escamotage letterario. C'è uno scrittore all'inizio del romanzo che si chiama Walter City e che incontra, diciamo, un esperto di finanza, una sorta di gola profonda della finanza. E così nasce l'idea del libro. Quanto c'è di vero e quanto c'è di finzione in questo escamotage letterario? Nell'artificio letterario è totalmente finzione, nel senso che io nei miei primi libri lo usavo invece come un reale modo, diciamo, di entrare dentro la narrazione, perché la sola cosa che ero sicuro di conoscere era me stesso, diciamo, e quindi partivo da lì per provare a conoscere tutto il resto. Poi piano piano invece, come dire, la cosa è diventata uno strumento tecnico, insomma uno strumento letterario, perché ho capito che non so bene per quale motivo, ma non mi riesce di scrivere una cosa totalmente in terza persona, cioè usando quello che si chiama il narratore onnisciente, perché non capisco perché un narratore debba essere onnisciente. Cioè, se uno non mi dice perché sa le cose che scrive, io non mi fido. Ecco, però alcuni scrittori dicono che all'inizio si scrive molto di sé, i libri sono autobiografici, ma si diventa veri scrittori quando si riesce a scrivere di altro. Quindi lei non è d'accordo con questa affermazione? No, non del tutto, per due motivi. Intanto perché credo che essere veri scrittori o no dipenda da come si scrive e non da che cosa. Mi rifiuto di pensare che Proust sia meno scrittore di Balzac semplicemente perché parla di sé, e poi perché non è neanche vero che quando si scrive in terza persona non si parla di sé, anzi delle volte succede il contrario, almeno a me è successo il contrario, che alcune delle cose più profonde che mi riguardavano, per esempio il sadomasochismo in Autopsia dell'ossessione, sì, credo che si chiamasse così, e adesso questa attrazione forte per il denaro, io non sarei riuscito, credo, a scriverle parlando in prima persona di me, perché sono cose che stanno nell'inconscio e quindi io non le so. Mentre vedo che saltano fuori se io le attribuisco a un'altra persona e sono comunque invece cose mie, per cui certe volte buttarle su un personaggio permette di portare allo scoperto delle cose che invece parlando in prima persona uno non può dire, non potrebbe dire. E in questo romanzo Resistere non serve a niente, questa ossessione per il possesso delle cose, l'ossessione per il denaro, è trasferita sul protagonista, che è Tommaso. Nel romanzo si segue la vita di questo protagonista. All'inizio vediamo un ragazzo di borgata a Roma, il padre addirittura è in carcere, la madre è una donna molto semplice e ha un problema fisico questo ragazzo. Sì, è bulimico e obeso. E anche quella, diciamo così, parte nella costruzione del personaggio, parte da una metafora, nel senso che appunto la bulimia gastronomica allude appunto a una specie di bisogno di possedere sempre di più, e quindi naturalmente diventa poi bulimia, diciamo, vitale nel momento in cui ha l'occasione, avendo poi invece un sacco di soldi a disposizione, di potersi impadronire del mondo, e quindi vuole una ragazza esattamente come lui sognava da piccolo, vuole umiliare le persone che gli stanno intorno e, diciamo, in qualche modo diventa una specie di delirio di onnipotenza, che però all'inizio era invece soltanto riservato ai bomboloni alla crema e cose del genere. Sì, all'inizio appunto è un ragazzo obeso, poi nel corso della storia lui diventa praticamente un trader, insomma gestisce dei fondi di investimento, sì. E quindi è un ragazzo destinato a diventare ricco. Infatti in una delle pagine di questo romanzo lei scrive: la finanza ha surrogato l'obesità nel funzionare come antidoto al senso di colpa, come intercapedine tra sé e i desideri troppo personali. Anche il denaro, come il cibo, non racconta che se stesso, è anonimo e non distingue fra buoni e cattivi. Quindi Tommaso di fatto sostituisce la sua bulimia nei confronti del cibo con la bulimia nei confronti del possesso delle cose, ma soprattutto nel fare denaro, soldi. Sì, sì, sì. Beh, insomma, il denaro, questo lo diceva già Marx ai suoi tempi, insomma, è una unità di scambio indifferenziata, no? Quindi con il denaro si possono poi comprare tutte le cose che si vogliono, e quindi diventa una specie di strumento per affermare per l'appunto la propria onnipotenza. Oltretutto ho l'impressione che una delle caratteristiche, diciamo, del mondo di oggi sia proprio il fatto che tra noi e la realizzazione dei nostri desideri si cerca di mettere meno barriere possibili, c'è una sorta di entropia, per cui mentre un tempo, diciamo nel tempo storico che conosciamo, almeno per l'Occidente, per passare da un desiderio alla sua realizzazione c'erano delle istituzioni, c'erano delle regole, delle norme, dei riti sociali, eccetera, eccetera, adesso si ha un po' l'impressione che queste cose stiano saltando e che l'illusione è che si può solo allungare la mano per prendere quello che si vuole. Il principio del piacere soprattutto? Più che quello, direi proprio il bisogno o il desiderio di saltare le mediazioni. Non so perché, io trovo che ci sia anche un po' una specie di relazione, che non ho indagato fino in fondo, ma così intuitivamente, tra questa cosa, cioè il fatto appunto di far saltare le barriere che stanno tra un desiderio e la sua immediata realizzazione, appunto senza mediazioni, e queste illusioni di democrazia diretta, eccetera, eccetera, il fatto che uno può avere un figlio anche se fisicamente non lo può avere, cioè è come se a un certo punto questa cosa che era partita quando io ero giovane come una cosa di ribellione alle troppe invece inibizioni, ai troppi interdetti, eccetera, eccetera, appunto desiderare l'impossibile, vietato vietare, eccetera, eccetera, sia diventata una specie di illusione generalizzata che basta desiderare una cosa per averla. Il protagonista del romanzo, Tommaso, diventa poi, dicevamo, un trader grazie alle sue grandi capacità intellettive, nel senso che è soprattutto appassionato un bravo in matematica e in statistica, soprattutto. Ecco, sì. È bravo in matematica e viene aiutato materialmente a studiare da dei personaggi poco limpidi, insomma, che fanno parte della criminalità organizzata. Quindi, a un certo punto, Tommaso dovrà ricambiare questo favore. In questo senso c'è una critica specifica al mondo della finanza di oggi. Inquinato. Assolutamente, anzi mi meraviglio che se ne parli così poco, cioè che in un momento in cui sembra che non si parli di altro che di politica e di economia, eccetera, eccetera, forse la cosa di cui si parla meno è la finanza. Soprattutto in due sensi, cioè che la finanza è diventata ormai una cosa che non ha quasi contatto con la vita materiale, basta pensare che si vendono i debiti, no? E quindi, come dire, si vendono delle cose irreali, e poi hanno fatto il calcolo mille volte che il giro, diciamo così, di soldi apparenti che circola nelle borse mondiali è molto maggiore di tutti i beni che ci sono sulla terra, quindi evidentemente stiamo parlando di soldi irreali, e questo pare che però non faccia effetto a nessuno, cioè si continua a ragionare sull'irreale come se fosse reale. Beh, ma ormai si sa che insomma la criminalità agisce più sui mercati finanziari che non su quello dei beni. La seconda cosa appunto è questo, cioè che naturalmente la criminalità si è fatta furba e invece di acquistare beni materiali che possono essere confiscati lavora sui mercati, dove attraverso queste dark pool o insomma comunque diciamo le varie forme di nascondimento del denaro, siccome dopo un po' non si sa più chi abbia messo i soldi, ovviamente è un posto perfetto per metterci i soldi liquidi senza che possano venire confiscati da nessuno. I due elementi fondamentali di questo libro sono appunto i soldi, ma anche il sesso, utilizzato dal protagonista in maniera utilitaristica proprio, usa le donne, ovviamente non le ama, non le apprezza. Spesso nei suoi libri è presente il sesso omosessuale. Come mai questa cifra la rappresenta? Vabbè, intanto perché sono omosessuale, quindi conosco meglio questo del sesso eterosessuale. Sì, però non è detto che uno scrittore omosessuale debba sempre parlare di sesso. Come mai? Beh, questa... tant'è vero che in questo qui si parla solo di sesso eterosessuale, sì, certo. Perché naturalmente Tommaso ha delle donne e non ha degli uomini. Quanto al sesso, beh, diciamo che il rapporto tra sesso e denaro è veramente antico quasi quanto la letteratura, insomma, o perlomeno il grande romanzo dell'Ottocento, eccetera. E dire che non ci sono rapporti è pura ipocrisia, anche quando non si tratta di prostituzione, no? Per secoli le donne, come dire, hanno usato il matrimonio e quindi il sesso per trovarsi anche una posizione economica, Sociale. sociale, eccetera, eccetera. E quindi, come dire, questa dinamica mi è sempre servita anche per, come dire, per insistere su una cosa che non mi è chiarissima, ma che di nuovo sono abbastanza convinto che caratterizza la modernità, cioè che quelli che una volta si chiamavano i sentimenti, e quindi per esempio l'amore, sono diventati sempre di più delle cose prêt-à-porter, come se ci fosse, diciamo, più il valore di scambio che il valore d'uso dei sentimenti. Allora, siccome invece questo rapporto diretto, chiamiamolo pure prostitutivo, tra denaro e sesso, salta il sentimento, in alcuni momenti ho l'impressione che sia più sincero, meno ipocrita del sentimento stesso. Una visione però piuttosto pessimista della. Moraviana, diciamo, per venire alla tradizione italiana, insomma, no? Sì, e poi credo che anche tra sesso e denaro ci sia una cosa comune, cioè che tutte e due sono appunto degli strumenti di scambio indifferenziato, cioè tu se sei, come dire, piacevole fisicamente puoi usare il sesso per ottenere quello che vuoi, esattamente come puoi fare col denaro. E quindi c'è una specie di omologia, c'è una specie di parentela tra le due cose che non so perché mi ha sempre attirato, no, veramente lo so perché, perché appunto è un modo di esprimere il desiderio senza legami e che quindi va in quella direzione un po' nichilista di odio del mondo, che evidentemente è una cosa che mi caratterizza fin da quando sono piccolo e quindi non riesco a uscirne ancora fino adesso. Poi il romanzo che sto scrivendo adesso si chiama Exit Strategy e quindi C'è una soluzione. forse c'è una via d'uscita, ma non ne sono sicuro. Questo è un romanzo fatto soprattutto di dialoghi. Si scoprono le trame, gli episodi, gli eventi anche attraverso i dialoghi. Come mai ha scelto questa Ma questa forma? non è una cosa solo di questo libro. Ormai mi sono reso conto, uno poi continuando a scrivere libri capisce anche che bestia è lui, no? Cioè che alcune cose le puoi fare, altre cose non le puoi fare. Io ho visto che per esempio la narrazione al passato, quando rendo conto di, quindi con gli imperfetti, con i passati remoti, eccetera, non mi viene bene. Ho bisogno di costruire delle cose al presente dove io ci sono dentro, come se io stessi ascoltando. E credo di essere abbastanza mimetico di natura, cioè se ascolto le persone capisco come sono fatti da come parlano. E quindi ricostruire il linguaggio delle persone è il mio modo per entrare dentro quello che racconto. L'ho sempre fatto e in genere mi aiutano molto i dialetti o i gerghi, diciamo così, in questo caso il gergo finanziario che lui usa per esempio anche per parlare d'amore, per parlare di altre cose. Però insomma, penso che spesso si descrive meglio una persona raccontando come parla piuttosto che descrivendola dall'esterno, come è vestita, come è fatta, eccetera. Ecco, io a questo proposito ho fatto leggere questo libro ad alcuni esperti del mondo finanziario, ad alcuni trader, per avere da loro la visione. Tutti mi hanno detto che proprio l'estetica che lei rappresenta di quel mondo in questo libro è perfetta. Come si è documentato? Beh, lì diciamo ovviamente prima con delle cose scritte, quindi ho letto tutto il leggibile su queste cose, anche scritte appunto da trader famosi pentiti, diciamo così, che raccontavano il retroscena del loro mestiere, eccetera. E poi materialmente, diventando amico di un trader di Milano, di un gestore di un hedge fund, che mi ha raccontato più o meno come è stata la sua giovinezza, la sua formazione, e poi mi ha consentito di andare anche in ufficio da lui parecchie volte, in modo che ho cominciato a capire appunto qual era il tipo di linguaggio e qual era la tensione emotiva che circolava in questi posti dove c'è sempre una carica di adrenalina molto forte, perché appunto sembra che tutto si viva nei 10 secondi successivi, no? L'altra cosa che è molto affascinante della finanza è che i tempi sono talmente raccorciati che sembra la cosa più moderna che esista, cioè nel giro di 5 minuti può cambiare tutto dentro un contratto che fai o cose del genere. Ho tenuto per ultima la domanda alla quale gli scrittori fanno più fatica a rispondere, cioè quella sul premio letterario. Insomma, lei è in gara per lo Strega. Come vive questa questa attesa per questo premio? Ci crede, ci punta, ci conta? Spero di vincere, naturalmente, visto che concorro. Sarebbe un po' stupido. Bella questa sincerità. Beh, sarebbe stupido concorrere per sperare di perdere, non avrebbe molto senso. E pensa di averne le chance? Non ne ho la più pallida idea, però sono in corsa e cercherò di correre più veloce che posso. Dopodiché, poi non è che mi cambia la vita, insomma, però visto che ci sono. Speriamo bene allora, dita incrociate. Esatto, dita incrociate. Grazie a Walter Siti, ora in libreria con Resistere non serve a niente, pubblicato da Rizzoli. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.